Piano. Fate piano, per favore. Piano. Non vi accalcate uno alla volta. Mi raccomando, piano. Lentamente. In silenzio, per favore. Non spingete. Fate piano. Senza fretta. Non c'è nessuna fretta. Piano, fate piano per favore. Piano, non vi accalcate. Uno alla volta, mi raccomando. Piano, lentamente. In silenzio per favore. Non spingete, fate piano. Senza fretta. Non c'è nessuna fretta. Le preghiere come a Siviglia. Le primavere che si muore e si risorge si possono contare. Senza ritorno il tempo nei corpi ci ama. È limitato è l'amore per il creato. Ecco la passione delle costole punte, ecco il palato di fiele. Si contano le primavere che si muore e si risorge. Le case sono nere, le palme trafitte, tra le strade le sassate e le bocche sono secche. Piano, fate piano per favore. Non vi accalcate, uno alla volta, mi raccomando, piano, lentamente. Ossa messe a serrare le strade di lato, perché non si vada fuori, tracciato o ad altre destinazioni, contrazioni di paesaggi immortali. Noi non siamo naturali, ma divaricazioni, frazioni di secondo, dove spinge il piede e schianta. Tutto è chiuso e non ha sbocco. Grandi le arterie dove scorre il liquido, un pigmento, prima di polvere chimico rosso, poi disciolto. E noi subito a chiamarlo sangue, e noi subito a chiamarlo corpo. È tutto a posto, riposa su un fianco il manto stradale. Divelto l'asfalto è stato detto sotto, non c'è fango, ma ancora asfalto e forme di insetti racchiuse nel cemento. Gli scheletri, le ali, gli arti, che tu ricalchi e schiacci in forme. Piano, fate piano. In principio era la carne, carne nuda e sola, carne senza verbo, senza parola. Quando il verbo fu fatto carne, se ne disfece in tempo per rivestirsi e guidarle contro. Un esercito. Carne, carne. Piano. Fate piano, per favore. Piano. Non vi accalcate. Uno alla volta. Mi raccomando. Piano. Lentamente. Senza fretta. Non c'è nessuna fretta. Carne che da sola si rivolta, che si attuffa su selciati e più non posso, che urla, che si lagna, mentre tu tra le strade, tra la folla, ti fermi pensieroso col sudore. Pietra delle pietre, pietra senza nome, senza faccia, da questa viene la...